interessante trovarsi di fronte ai testi di base fondamentali con i quali si è lavorato, nel caso del professor Lovri, che credo tutti noi abbiamo letto i suoi libri e li abbiamo usati a lezione, li consigliamo sistematicamente. Non sapevo, l'altro giorno avevo comprato via ebook, ha scritto uno splendido libro sulla battaglia di Inghilterra, distruggendo alcuni miti, divertendo su un'anima, distruggere piccoli miti storiografici, e questa mi pare sia una sua ultimissima fatica, ma da questo sono molto certo che sono maggiore studioso sia di storia militare sia anche di storia economica degli anni precedenti. Io mi fermo qui, passo subito la parola al professor Overy, che ci fa anche la grande cortesia di parlare in italiano, e poi passerò la parola a Valerio. Grazie. Dobbiamo accettare due, una vettoria dell'asse, anche se forse parziale, campagna, non è impossibile. In parte a causa delle competenze formidabili delle forze armate tedesche, e in parte a causa della fragilità dell'alleanza tra le potenze democratiche e l'Unione Sovietica. Questa alleanza, pure conveniente per i tre alleati principali, non fu una collaborazione priva di disaccordi militari e politici. La natura ambigua della collaborazione fu evidente alla conferenza di Casablanca nel gennaio 1943. Stalin aveva rifiutato l'invito a quell'incontro, principalmente perché contrariato dal Parlamento anglo-americano di aprire un secondo fronte in Francia, ma anche perché, secondo lui, il dramma che si stava consumando a Stalingrado era più vitale di una riunione incerta. Oltretutto, Stalin aveva paura di parlare. Il Comando Supremo americano voleva tentare un'invasione appena possibile nel 1943. Al contrario, Churchill e i chiefs of staff inglesi preferivano una via più indiretta attraverso i Balcani o la penisola italiana. È possibile che si esagerino queste differenze dal nostro punto di vista, ma a Casablanca la discussione tra gli anglosassoni riguardo problemi fondamentali per il futuro della collaborazione strategica. Per gli americani la guerra nel Pacifico era sempre una tentazione, a meno che non si arrivasse a un accordo riguardo alla campagna in Europa. A Casablanca si evidenziarono anche due concetti diversi riguardo l'offensiva aerea contro la Germania, e alla fine si raggiunse un accordo a favore di due strategie diverse e separate. Inoltre non dobbiamo dimenticare il problema politico. Roosevelt decise, annunciate, il principio della resa incondizionata, senza alcuna garanzia che Mosca fosse d'accordo. Insomma, il risultato della conferenza rimase in parte ambiguo. È necessario oggi riconoscere che le ragioni della grande svolta furono complesse. Voglio parlare stasera di tre fattori fondamentali. Primo, il ruolo delle forze imperiali. Secondo, l'importanza dei cambiamenti in campo militare attuati dai tre alleati nei confronti della capacità militare tedesca. Terzo, le decisioni strategiche e politiche prese dai più campi, da un lato gli alleati, dall'altro l'asse. Di solito, quando si tiene conto delle posizioni italiane, risulta evidente che le risorse economiche dei tre alleati possono superiori a quelle dell'asse. Ma questa teoria è ingannevole, perché la Germania dominava quasi tutta l'economia europea dopo il Novecento. In seguito alla campagna industriale, nonché gran parte del surplus agricolo nel territorio occidentale. Entro il 43, il territorio occupato dalla Germania forniva prodotti agricoli, denaro, operai e materie prime per l'economia tedesca. In base alle risorse disponibili, la Germania non solo avrebbe potuto produrre più armi che l'Unione Sovietica, ma avrebbe potuto raggiungere una produzione simile al livello raggiunto dagli Stati Uniti. Tuttavia, nel 43, la Germania fosse ben 8.000 apparecchi aerei, la Russia 35.000, la Germania 19 carri armati, la Russia 24.000, la Germania 27.000 cannoni, la Russia 130.000, eccetera, eccetera. E dopo solo un anno di guerra, gli Stati Uniti nel 43 costruirono 85.000 apparecchi e 67.000 cannoni. È ben conosciuto che la produzione militare italiana fu a paragone degli Stati Uniti molto bassa, anche se sufficiente a mantenere una guerra limitata in Africa. Il contrasto più importante rimane quello tra la Germania e la Russia. Entrambe le culture, ma con sistemi molto diversi per l'organizzazione dell'economia. La guerra in Russia fu per due anni il fronte più decisivo di tutti. L'esercito tedesco vi subì quasi 80% dei morti militari. La sopravvivenza dell'Unione Sovietica dipendeva dalla sua produzione militare, ma era difficile organizzarla dopo le distruzioni dei primi mesi dell'invasione. Tuttavia, Stalin e il suo governo crearono un comitato centrale per discutere i problemi industriali ogni giorno della guerra. I problemi erano identificati velocemente e da Mosca vennero istruzioni e ordini ai manager industriali per ottenere una soluzione immediata, spesso con minacce, ma alla fine abbastanza efficace. Il sistema non era perfetto, evidente, ma semplice e diretto. Inoltre, la produzione militare era limitata alle armi più essenziali. Pochi tipi di apparecchi, di carri armati, di cannoni e tutti prodotti in serie per poter impiegare la manodopera meno qualificata e più disciplinata. In Germania il sistema amministrativo fu meno accentuato. Hitler era contrario a ogni forma di comitato dove si sarebbe potuto discutere dei problemi della produzione, della manodopera o delle risorse. Di conseguenza, fu difficile affrontare in un tempo problemi urgenti, specialmente a causa della sempre maggiore indifferenza del partito nazista per questioni economiche. Per esempio, dalla Fritz Sauer, responsabile è a causa della mancanza di coordinamento fra diverse direttive politiche. Inoltre c'erano problemi causati dalla divisione tra struttura burocratica e autorità militare. Gli ufficiali chiedevano che la produzione industriale fosse adattata alle domande d'offerta, cioè la produzione più facilitata anziché quella funzionale. Per questo motivo la Luftwaffe sviluppò entro il 43 42 tipi diversi di alfabeti. L'esercito tedesco utilizzò 36 tipi di cannoni, 55 veicoli e 18 modelli di carri armati. Il processo capiva che la produzione militare era troppo complessa e quindi meno efficace. Nel dicembre 41 aveva insistito per far introdurre tra le forze armate un sistema più semplice come in Russia. Ma la priorità delle forze armate rimase fino al 44, quando Albert Speer, ministro per la produzione di armi e munizioni, ordinò un programma per ridurre il numero di tipi di attrezzature militari. Gli alleati occidentali incontravano problemi a causa del loro sistema di rifornimento, particolarmente durante la battaglia atlantica, finché gli Stati Uniti cominciano dal dicembre 1940, grazie alle intenzioni del Presidente di aiutare la Gran Bretagna, malgrado la pressione politica a favore dell'isolamento, con un programma sempre più significativo di assistenza materiale. Il sistema, il cosiddetto Lend-Lease, ottenne un risultato fondamentale. Prima per la Gran Bretagna, dopo la crisi finanziaria dell'inverno 40-41 e poi per l'Unione Sovietica. L'assistenza ammontava a 30 miliardi di dollari per Gran Bretagna e a più di 10 miliardi di dollari per la Russia. Durante il 43, le riserve della Russia ebbero un'importanza proprio strategica, perché l'industria russa si concentrava sulla produzione di armi per l'esercito, mentre gli Stati Uniti fornivano cibo, materie prime, camion e apparecchiature per la rete telefonica e per la viaggio. Per anni, dopo la guerra, l'Unione Sovietica sostenne che il Lend-Lease non fu molto utile, ma adesso abbiamo prove dagli archivi russi che Stalin ben conosceva durante il conflitto quanto fossero essenziali le risorse americane. Le vittorie russe del 43 sarebbero state meno certe senza questi aiuti. Al contrario, gli stati dell'asse non ebbero mai un programma di tale portata per la collaborazione economica, mentre all'Italia mancavano sempre carbone, macchinari, acciaio. Voglio parlare adesso del secondo tema, la capacità militare. Perché la differenza tra i due sistemi di produzione e fra la quantità delle risorse non sarebbe stata significativa. collettiva, se il vantaggio materiale non fosse stato sfruttato a meglio nelle operazioni militari, possono essere mali alla offerta. Questo fu un aspetto che gli alleati dovettero migliorare per poter riuscire a sfruttare i vantaggi materiali a loro disposizione. E qui stava la difficoltà principale. L'esercito e le forze aeree statunitensi, per esempio, non avevano alcuna esperienza dalla fine della prima guerra mondiale. Oltre a essere di dimensioni limitate rispetto a quelle di tutti gli altri combattenti, le forze armate britanniche avevano ottenuto risultati misti, ma fino alla fine del 42 vennero regolarmente sconfitte dalle forze armate nemiche, che avevano maggiore capacità di comprendere le realtà operative e tattiche. Perfino nel guerra d'Africa, le forze italiane riuscirono insieme agli Africa Corps di Rommel a contenere la gran quantità di truppe e aerei del comune britannico. Per l'Unione Sovietica, il 42 fu generalmente un altro anno di disastri, con le perdite della Russia del Sud e della Crimea. E la notevole perdita di uomini su tutti i fronti. In tutti e tre i casi, americano, britannico e sovietico, fu necessario imparare lezioni da esperienze difficili, soprattutto lezioni dall'esempio stesso, per poter aumentare le capacità di combattimento degli eserciti alleati. La situazione sui mari era diversa ed è importante sottolineare come negli anni centrali della guerra il controllo aliato della guerra sul mare fosse considerato a Londra e a Washington come la priorità principale. Per questo motivo ingenti risorse in Occidente furono dedicate alla guerra contro i sottomarini e alla costituzione di un numero adeguato di portaerei e di apparecchi da utilizzarsi per le operazioni navali. Spesso nella storiografia recente della Seconda Guerra Mondiale, l'importanza della guerra navale è stata sottostimata, ma essa rappresenta l'unico modo in cui gli Stati Uniti potessero estendere la propria potenza attraverso due oceani, sia per trasportare soldati e aree che per mantenerli abbastanza riforniti e per garantire l'arrivo delle risorse di Lendis ai loro alleati. Ogni divisione dell'esercito spedita all'estero via nave dagli Stati Uniti richiedeva 250.000 tonnellate di rifornimento ed equipaggiamento. E ancora più era necessario per le divisioni corazzate. Il fattore cruciale era vincere la battaglia dell'Atlantico contro i sottomarini tedeschi, per permettere agli americani di giocare un ruolo centrale nelle campagne europee e salvaguardare il flusso dei rifornimenti per mantenere lo sforzo militare di Santo. Anche la Gran Bretagna aveva bisogno di rifornimenti da altro oceano, di cibo, petrolio e materie prime per sostenere lo sforzo bellico. Anche se la situazione non fu mai così critica come sostiene in seguito Churchill, la Royal Navy era a corto di giorno dall'inizio del 43. E nello stesso periodo le risorse ammontate erano scese a un livello di circa 3 mesi della popolazione civile. Fu proprio nella guerra navale che le capacità operative degli alleati occidentali crebbe drammaticamente all'inizio del 43. Grazie a scoperte tecnologiche importanti, soprattutto l'invenzione del cavitre magneton, non potevo trovare le cose che italiani giusto di magneton, che permise la produzione di un radar a onde corte più preciso e del Levite adattato ad apparecchi aerei per attacco ai sottomarini e che avrebbero quindi potuto illuminare i sottomarini di notte. Fu possibile migliorare il controllo della minaccia subacquea. Utilizzo di navi di piccole dimensioni come servizio di scorta e l'uso degli aerei a lunga distanza per l'asa degli anni permisero una completa copertura ai convogli, mentre i nuovi gruppi di supporto per navi veloci armati pesantemente furono utilizzati per scoprire e distruggere i sottomarini. Nel 42 furono affondati solo 35 sottomarini tedeschi. Nel 43 150. Nel 42 i sottomarini tedeschi affondarono milioni, 5 milioni di tonnellate di navi mercanti alleati. Mentre da giugno a dicembre 43 la cifra fu sotto le 400.000 tonnellate. Questo cambiamento fu fondamentale per permettere la preparazione all'invasione della Francia, ma anche per il lancio dell'invasione prima del previsto del entroterra italiano. Nel teatro mediterraneo furono i sottomarini alleati a danneggiare le rotte di rifornimento agli eserciti dell'asse nel Nord Africa. Entro la fine della guerra, due terzi della flotta mercantile italiana era stato affondato e gran parte dell'armamento era stato danneggiato. Una situazione che rese quasi impossibile la difesa finale della Tunisia nella prima guerra del 43. Il controllo dei mari poco arrese da margine del 43, più di 300.000 forze armate italiane e tedesche. Di tutti i momenti di svolta del 43, la supremazia navale fu la presunzione principale per le ulteriori azioni. Nell'Unione Sovietica i problemi erano diversi. Qui fu necessario trovare il modo di bloccare e poi sconfiggere le forze tedesche in condizioni di combattimento estivo. La vittoria passata in grado a fine gennaio 1943, che sembrava improbabile, se non impossibile, già cioè a settembre del 1942, dovette molto a scagliati calcoli strategici da parte di tedesco e a duro clima invernale. Ma nel 1943, nella terza battaglia di Kharkov, il Feldmarschall Manstein sconfisse in una operazione affrettata dell'Armata Rossa e creò le condizioni per operazioni cittadelle. Il piano tedesco dell'estate del 1943 era la distruzione della postazione sovietica intorno a Kursk e per rimodificare le politiche in condizioni estive a favore della Germania. L'esercito tedesco, che continuamente sottostimava le capacità strategiche, operative e tattiche del nemico russo, si aspettava di vincere questa battaglia. In realtà, l'esercito e le forze aereo sovietiche avevano passato buona parte del 1942 a cercare di riorganizzare le proprie forze per poter affrontare la Germania. Questo comportò la costituzione di divisioni corazzate che erano unità autosufficienti e includevano corazzate, fanteria, armi antiaeree e anticarro armato. Fu anche necessario centralizzare le operazioni aeree e controllare in maniera più efficace, utilizzando comunicazioni radio e avvertimenti di radar, anziché inviare aerei in piccole quantità a singole unità dell'esercito. La collaborazione tra l'esercito e le forze aeree migliorò rapidamente e efficacemente alla fine dell'operazione a Stalingrado. E ciò un ruolo essenziale nella ripresa della potenza militare sovietica da 1943. Entrambe queste riforme prevedevano quella che è generalmente descritta come dottrina del Blitzkrieg. La Marta Rossa era ancora un'organizzazione ingombrante che sprecava uomini e risorse, ma queste riforme crearono unità di aria e di terra capaci di colpire duramente e costringere le forze tedesche ad adattare fino a Berlino. In questo senso, la svolta del 1943 dovette più a miglioramenti organizzativi tecnologici e tattici da parte degli alleati che ha una semplice superiorità materiale. È anche importante ricordare che tutti questi cambiamenti avvenirono al tempo stesso in cui anche l'asse implementava miglioramenti. Anche l'asse, infatti, imparava dalla esperienza. E dentro il 1943 la tecnologia, inclusi alcuni seriati italiani, era migliorata notevolmente dal 1940. Inoltre, le forze armate tedesco impiegavano molta attenzione a imparare lezioni tattiche durante lo sviluppo del livello. L'innovazione militare crebbe in due direzioni, il che rese il successo alleato ancora più significativo. Il terzo tema riguarda le scelte strategiche parte dal campo nemici, dal parato esperto. Le potenze galasse avevano meno scelte, perché le opportunità aperte dal 42 risultavano essere deludenti. E si trattava ora di trovare un modo per limitare i danni e trovare un sistema politico militare per riprendere l'iniziativa. Queste possibilità dipendevano dalla forza e dallo sviluppo della grande alleanza tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica. È facile esagerare il livello di cooperazione e fiducia reciproca. Così non è nato le ambiguità evidenti a Casablanca, ma vale la pena di rienfatizzare che l'assenza di Stalin a Casablanca e il suo continuo risentimento per la mancanza di un secondo fronte costituirono una separazione seria che aiuta a spiegare la sfiducia dimostrata in seguito dai sovietici nei confronti degli alleati durante i primi mesi della pace. Stalin non prese sul serio le continue rassicurazioni di Churchill, secondo cui il bombardamento della Germania, che aveva ottenuto ben poco entro l'inizio della Francia, sarebbe stato una specie di secondo fronte. Le prime modeste incursioni americane sulla Germania arrivarono solo dopo la conclusione della conferenza di Casablanca. Stalin e il suo governo conservarono un debito compromesso la decisione occidentale di concentrare le forze sul teatro neutrale da 1943. Ma poiché fu evidente che un'invasione della Francia a quel punto non era possibile, una campagna contro l'Italia risultò meglio di niente. La continua tensione tra i piani britannici e quelli americani fu ulteriore fonte di difficoltà. Il problema non è semplicemente che il consigliere di Roosevelt e soprattutto il generale e comandante dell'esercito americano, Marshall, preferissero la preparazione di un'invasione della Francia e per la quale nel 42 erano stati partoriti in Gran Bretagna lottava forza aerea. Ma anche il fatto che gli Stati Uniti erano impegnati in due direzioni strategiche, in Europa e in Giappone, e la maggioranza della prima Repubblica americana era preoccupata dalla guerra del Pacifico. Lì risiedeva un nemico che il pubblico americano era stato convinto a odiare, mentre la guerra contro la Germania era sostenuta non tanto dalla possibilità verso i tedeschi come il popolo, quanto dalla necessità di liberare l'Europa dal nazismo. Un aspetto più difficile da comandare al pubblico. A Casablanca, i consiglieri di Roosevelt minacciarono più le prese che se non si fosse raggiunto un accordo su questioni strategiche cruciali, navi e armi sarebbero stati spostati sul fronte contro il Giappone. Malgrado la continua propaganda sulla collaborazione tra le forze democratiche, il pubblico britannico era preoccupato dal significato dell'assistenza americana e spesso ostile alla presenza militare americana in Gran Bretagna. a Churchill un'invasione, la parola cioè, attraverso la banca, comportava inoltre rischi notevoli. I britannici avevano ottenuto solo una vera riposa a Elagin e la possibilità di un'altra sconfitta, se l'invasione fosse andata male, avrebbe minato profondamente la volontà del pubblico britannico di sostenere la guerra. In particolare, considerata la minaccia, si è evidente all'inizio del 43 che i tedeschi possedevano armi segrete da utilizzare contro la Russia, la Grande Bretagna. Esigono quindi ragioni importanti a favore della decisione di utilizzare forze circolate in Nordafrica per cercare di eliminare l'Italia dalla guerra, anziché cimentarsi con azioni più efficaci. L'intelligence statunitense e britannica aveva informato che vi erano molti segni di crisi politica per di Mussolini e che una combinazione di incursioni interne, attività di propaganda e anche solo la minaccia di un'invasione sarebbe stata sufficiente a farlo parlare e a costringere l'Italia uscire dal conflitto. I vantaggi di una campagna italiana erano evidenti, anche perché anche le forze erano già presenti nel Mediterraneo, dove potevano combattere un evento senza correre troppi rischi e inoltre bloccare le forze dell'asse durante i critici mesi estivi, quando l'esercito tedesco avrebbe cercato di riprendere l'iniziativa di Russia. Uno dei miti di quel periodo che ancora perdurano è l'idea che un attacco contro l'Italia sarebbe stato un attacco a cosiddetto ventre molle dell'asse. Non ci fu alcun combattimento molle nonostante le debolezze materiali e operative delle forze armate italiane, ci vuole un anno intero prima delle ultime decisioni dell'esercito in Etiopia si arrendessero. E ci vuole due anni perché le forze del Congo britannico avessero la meglio sulle forze italo-tedesche in Italia, con grandi perdite di uomini e materiali da entrambe le parti. Dopo una difficile sconfitta di Messe e di Von Arnim in Tunisia, a maggio 43, doveva essere chiaro alle forze armate anglo-americane che malgrado i vantaggi materiali e il controllo dell'area e dei mari, un attacco all'Italia prometteva difficoltà reali, non solo da un punto di vista geografico, molto importante, ma anche perché era probabile che l'invasione avrebbe rafforzato la resistenza tedesca. Entrambi questi vantaggi furono evidenti nell'estate del 43, in seguito a un'occupazione della Sicilia, anche se ottenuto con difficoltà e in seguito alla caduta del Mussolini. Hitler aveva già anticipato che il crollo dell'Italia e continuato a infiltrare tutte le tedesche in Italia nel 43 e la resa italiana portò alla caduta di un nuovo fronte tedesco. È vero che questi eventi bloccarono divisioni tedesche che sarebbero altrimenti state immediate per prevenire un collasso del servizio tedesco a questo. Tuttavia, il nuovo fronte costretti a una guerra estenuante per 2 anni, con costi elevati per se stessi e per l'impotente popolazione civile italiana, presa da un mezzo tra i tedeschi e gli aerei occidentali. Questo non fu un vento nuovo, ma un duro coraggio. Possiamo chiederci se Hitler avesse potuto optare per scelte diverse dal 43 ed evitare le tante crisi che portarono alla svolta negli eventi bellici nel 43. Ci sono pochi dubbi sul fatto che un luogo o dell'impresso si trovasse in una situazione di stato dal 43 e che non fossero possibili nuove iniziative politiche. Una volta che l'esercito si trovava ad occupare la Francia di Vichy e Mercedes. Hitler non era in grado di considerare le situazioni di compromesso. Era enormemente ottimista ogni volta che si presentava un prove di scoria tra i tre alleati. Come Federico il Grande, il cui ritratto era appeso nella cucina di Hitler, egli aveva esaurito ogni possibilità di sorprendere il nemico e contava solo sul coraggio delle sue forze armate e sulla possibilità di un'evoluzione diplomatica. Sembra che egli non avesse mai considerato la possibilità di arrivare a un accordo con gli alleati, neanche se ciò fosse stato possibile, ma ormai non aveva nulla da offrire. Le motivazioni per cui i due nemici combattevano erano ora espresse in termini assoluti, come era successo sempre più durante la Prima Guerra Mondiale. Per entrambi i nemici, nessuna strategia che non comportasse la vittoria poteva avere senso. Ed è per questo che la resa incondizionata annunciata a Casablanca pose molti meno limiti di quanto si è già ottenuto. Entrambi gli schieramenti combatterono per ottenere un risultato senza condizioni. Questo spiega perché l'unica iniziativa rimasta a Hitler e ai capi del partito nazista fu quella di completare la cosiddetta guerra contro gli ebrei. Questa guerra, dichiarata segretamente verso la fine del 41, fu considerata da Hitler, Himmler e altri come un vero guerra, il cui successo finale avrebbe significato una vittoria tra le molte sconfitte. Questa fantasia aiuta a spiegare perché la campagna contro gli ebrei fu estesa durante i 43 e la prima metà di 44, fino a raggiungere gli angoli più estremi dell'Europa occupata, per esempio l'isola di Rosa. Più tardi, nel 45, nelle ultime conversazioni conosciute di Hitler, egli si lamentò del fatto che non era mai esistita una guerra più tipicamente ebraica quanto quella che la Germania stava per vedere. Ma riflette anche sul fatto che essere riusciti a eliminare milioni di ebrei dall'Europa era stato un successo, poiché una La Germania ha perduto una guerra in meno da combattere. È difficile comprendere questo atteggiamento in relazione a confronto bellico in cui era coinvolto la Germania nel 1943. Ma le due idee di una guerra sul fronte militare e una sul fronte interno erano strettamente legate dal mente di Hitler e di molti veterani che avevano aderito al nazismo in seguito al sconfitto del 1918. Lo sterminio di massa degli ebrei era una campagna che il partito poteva vincere, mentre gli alleati si stringevano intorno alla Germania in un assedio, si sosteneva organizzato dagli ebrei a Mosca, Londra e Washington. L'idea fantasiosa di un conflitto ebraico-germanico come il nodo fondamentale tra sistemi e visioni del mondo opposti divenne la base della comprensione italiana della guerra. E su questo punto non vi erano volte di cui parlare. Grazie. In italiano, soprattutto in lingua italiana, che il volume che in qualche modo ha aperto la stagione di studi su Vichy, che è quella del storico americano Robert Paxton, che aveva editato, appunto, che è uscito nella prima edizione in Francia nel 1973, è stato tradotto in italiano solo nel 1999. E che, appunto, tra le poche cose disponibili, i pochi lavori scritti in italiano, si può menzionare il recente monumento in francese da un Kessel, cioè un fatto di riferimento una piccola sintesi di Rousseau su Vichy, e pochi altri lavori italiani, riferisco a un vecchio volume di Giorgio Carelli dell'89, alcuni studi di Maurizio Serra, in particolare sugli aspetti della storia, diciamo, degli aspetti culturali di Vichy, una cultura dell'autorità pubblicata nell'80, poi diventato nel 2011, oppure come il lavoro di Sandro Guerrieri, in particolare proprio su pubblicato da Unione nel 2005, sull'ora del maresciallo di Vichy, il conferimento di Enzo Guerrieri. In realtà vi è ormai un'ampissima letteratura su Vichy, tanto in lingua francese che anche in lingua inglese, che quindi è rimasta in qualche modo, per quanto ci riguarda, fuori dai circuiti dei non specialisti e non addetti ai lavori. In qualche modo, appunto, l'incanto di questa possibilità di costruire quasi comparati, tanto sul fronte della storia sociale della guerra, tanto come su quella del collaborazionismo con il fenomeno europeo. E anche, forse, e anche se non è centro di intervento oggi, delle modalità comuni della resistenza, come quella che abbiamo visto stamattina, non resistenza europea, ma resistenza in Europa. Tanto un volume, un libro che ha avuto un enorme successo, quello di René Minowski, Suite Française, che è stato un libro che, appunto, che ha raccontato quei giorni, diciamo, della sconfitta, quanto Mark Gorman, che stamattina si è citato nelle sue straordinarie memorie, in particolare nelle pagine intitolate Testamento del Francese, ci hanno lasciato delle descrizioni molto vive di cosa siano state tutti i giorni dopo la sconfitta della Colombia, questa guerra molto strana. In poche settimane l'esercito nazista entra a Parigi, spazzando le difese militari del suo nemico storico, che sembravano imbattibili, e con esse quindi vengono spazzate via la sicurezza di una nazione imbattuta da 1870. Nelle pagine che appunto Bloch, uno dei più grandi storici francesi del Novecento, esistente e poi uccidato nel giugno del 44, in queste pagine si leggono appunto riflessioni sulla sconfitta consumata nel giro di 37 giorni, dal 10 maggio, quando cominciano appunto le operazioni, al 16 giugno del 1940. La sconfitta viene descritta da Bloch e Franche, strano, perché istantanea, totale, prevista e imprevedibile. E se non si getto, nell'estate del 1940, questo scritto, poi viene pubblicato e letto, nel 1946, in questo scritto è possibile appunto ritrovare un grande affresco, appunto un quadro di decomposizione morale, spirituale, tecnica e politica, che poi sono, come dire, hanno costituito le ragioni di questa sconfitta della Francia. Bloch appunto attribuisce i motivi alla incapacità di comando, allo sfaldamento della società francese, alla mancanza di senso di responsabilità, di statismo, a una crisi morale che in qualche modo è stata ripresa più volte dalla riflessione storiografica nei centri successivi. Nell'estate del 1940, sulle celle dell'istituzione della Terza Repubblica, quella appunto la trilogia che ne abbiamo nel 1970, con l'aiuto del maresciallo Philippe Pétain, l'eroe di Verdun, quindi l'eroe della prima guerra mondiale, viene appunto richiamato come il salvatore della patria, viene formato un nuovo État français, Stato francese. La dizione viene sospesa, come anche il potere del Parlamento, e quindi si costruisce uno Stato autoritario che assume ben presto un carattere anche fortemente antiparlamentare, antimassonico, antisemita. Ricordo che shock nazionale sono le misure di esclusione contro gli stranieri, xenofobi e diciamo di revoca della naturalizzazione che colpisce moltissimi pre-rifugiati. Ci sono questi statuti antisemiti dell'ottobre del 40 e del giugno del 41 e quindi si sostituisce diciamo al motto della rivoluzione del 89 della Repubblica Francese, libertà e libertà fraternità, la figlia delle famiglie, la loro patria, la famiglia del cavallo patria, che sono quindi diciamo vengono il motto in questo stato autoritario. E qui vengo appunto al primo elemento di rilievo di queste vicende. Il regime, quindi questo regime sposta la capitale a Parigi, da Parigi che rimane occupata, quindi sotto il diretto controllo di Berlino, Vichy, che rimane quindi formalmente indipendente fino al 1942. E questo nuovo governo di Pétain decide di intraprendere la via della collaborazione con la Germania nazista. Si configura quindi una dicotomia tra Parigi e Vichy, e questa dicotomia tra Parigi e Vichy sul tema della collaborazione è stata dunque indagata. Riprendendo appunto una definizione che il politologo Stanley Hoffman aveva proposto già alla fine degli anni 60 per distinguere una collaborazione di Stato, ovvero quella di Vichy per ragioni di Stato, e un accordo e di collaborazionismo. Hoffman aveva posto l'attenzione tra lo stretto margine tra collaborazione involontaria per ragioni di Stato e la collaborazione volontaria per le stesse ragioni. E qui cito: la collaborazione involontaria era il prezzo che fu necessario pagare per aver magnificato la situazione della Francia. La collaborazione volontaria era il prezzo che fu accettato di pagare per aver magnificato la situazione della Germania. Lo stesso Hoffman, già appunto sul fine degli anni 60, aveva precisato però che questa contrapposizione andava tenuta in considerazione e compresa meglio, invitando appunto a non contrapporre la politica dei governi di Vichy a quella dei collaborazionisti in modo molto rigido, perché ci dava ancora una volta nel collaborazionismo servile e nel collaborazionismo ideologico si sarebbe potuto sviluppare così facilmente se non ci fosse stata la collaborazione di Stato, che di fatto è legittimo. Secondo l'articolo 3 della Vestizio, stipulato nell'estate del 40, il governo francese doveva collaborare in maniera corretta con le autorità russe. Lo scopo da parte francese, in qualche modo, di accogliere questo, diciamo, di far proprio, di accogliere questo invito, era quello, innanzitutto, di mitigare le due condizioni della Vestizio stesso, che aveva previsto l'occupazione del quinto territorio e ingenti somme da versare all'Arabia per il mantenimento appunto delle autorità tedesche e Francia. Mi era poi un punto molto importante per Vichy, ma in realtà per la società francese tutta, la presenza di più di un milione di ingegneri francesi in Germania. Più illusorio fu invece il tentativo di conservare per la Francia un ruolo di primo piano nella futura Europa nazista, in questo nuovo ordine europeo di cui vi ho parlato stamattina. Va appunto tenuto presente che per tutto il 42, ma senz'altro da molti dirigenti civili di collaborazionismo parigino, di Fucchi, di Mao e tale Unione ancora per tutto il 43 e il 44, la vittoria della Germania, diciamo fino a almeno una parte del 43, la vittoria della Germania era considerata certa, su questo punto come lo so. Celebre fu il discorso di Pierre Laval dell'anniversario dell'attacco a Lourdes, che aveva dichiarato: auspico la vittoria della Germania, quindi siamo nell'estate del 42, auspico la vittoria della Germania perché senza di essa il bolscevismo vincerà comunque. La Francia non può rimanere passiva e indifferente di fronte all'immensità dei sacrifici che la Germania consente di compiere per edificare un'Europa nella quale dobbiamo prendere posto. E non bisogna poi dimenticare, quindi oltre a diciamo delle motivazioni strettamente legate alla questione dell'armistizio, anche che vi furono delle motivazioni di politica. salvaguardare questa autonomia impositiva che concessa, e dall'altra parte per far accettare alla popolazione interessante richiesta da parte dell'occupante, occorreva che queste potessero essere in qualche modo ideologicamente in sintonia con il nuovo corso, facendo affetto alla direzione delle terre francesi. Al di là del, poi del, diciamo, del mezzo e della propaganda, occorreva in qualche modo, come dire, da parte del governo di Vichy, gestire uno dei, diciamo, delle condizioni di sfruttamento della Francia che furono tra le figure di tutta la politica dell'Europa occidentale. Va appunto ricordato, questi sono appunto dati anche più recenti, che la razione alimentare della popolazione era una delle basse d'Europa se si esclude appunto l'Italia. È possibile individuare tre stazioni temporali che segnalano l'evoluzione della collaborazione in Italia. La prima appunto fu quella proprio che venne avviata con l'inizio della Costituzione di Vichy, in qualche modo anche come dire, faceva anche chiamava delle relazioni, diciamo, già avviate negli anni 30 tra riferito appunto agli incontri tra Laval, Otto Abels e l'ambasciatore a Parigi, Pétain, questa prima fase in via emissaria a Berlino. Viene considerato in qualche modo generalmente che la vera, diciamo, via della collaborazione viene intrapresa con il ritorno di Pierre Laval come capo del governo dalla fine del 1942 fino alla liberazione, e viene appunto considerato dalla storiografia come, diciamo, il principale fattore della collaborazione. In realtà già con sotto la gestione il governo dell'ammiraglio D'Arlan, che va dal 41 alla fine del 42, fu appunto in questo periodo, dal 41 fino all'inizio del 42, che venne messa in atto la collaborazione economica, che era quella poi alla fine che più premeva ai tedeschi, favorendo in qualche modo e stabilendo e organizzando una collaborazione tra industriali tedeschi e francesi. Sempre nel corso di quest'anno vennero promossi accordi di cooperazione di polizia resi necessari per l'inizio di attentati di sabotaggio, fino appunto ad arrivare a una vera collaborazione di tipo militare con l'aumentare della presenza della resistenza. Va però ricordato che a partire dalla guerra all'est, quindi i tedeschi, a partire da questa impostazione, questi rapporti di collaborazione, poi i tedeschi si disinteressarono alle sorti della Francia. E da quel momento si può considerare che Vichy intraprese una collaborazione a senso unico, aumentò in qualche modo, anticipò le concessioni, tanto da prevenire le richieste sempre più pressanti, soprattutto in tema di manodopera. E questo si vede benissimo con l'istituzione dello store, il servizio al lavoro obbligatorio, che prevedeva figlio di lavoratori in Germania. Nel corso del 1942 il termine di collaborazione si svuota così di significato e diventa un mero slogan di propaganda. Di fatto, quindi, in quale la preoccupazione di tutto il territorio francese, nello stesso anno, non modificò, perlomeno in modo sostanziale e radicale, il rapporto di forza tra Vichy e la Germania nazista. Il termine di collaborazionismo, invece, che si diffuse e in qualche modo va a definire quel tipo di collaborazione che si ebbe con l'occupante della zona d'occupazione, appunto, Parigi e il nord della Francia, e che è una categoria applicabile all'intera Europa occupata, interessato diciamo, dalla conclusione della guerra, oggetto di grande attenzione, proprio per il rilievo di questo fenomeno nella storia francese-cristiana. E in collaborazione i francesi si trovano ad operare in un contesto peculiare dove il regime di Vichy era ancora sovrano per almeno una parte del paese fino a, abbiamo detto, a novembre del 42, che era quindi un governo conosciuto dalle rappresentanze diplomatiche come governo ufficiale. E i collaborazionisti invece che rimasero nella capitale facevano parte di un cerchio ristretto, certamente non trascurabile, di uomini politici, giornalisti, ma anche semplici francesi, che si impegnarono, fecero politica in presenza dell'occupante, manifestarono opinioni collaborazioniste, alcune volte addirittura diciamo, fino a arrivare a in alcuni casi a volarsi nelle quindi quello che si può notare è questa specie di tensione, di autonomia tra Vichy e Parigi. Il collaborazionismo francese, i collaborazionisti francesi in questa prima fase del 1942 in qualche modo avevano questa funzione di stimolo, rispetto agli uomini di Vichy che venivano considerati ghetti per invitare a una maggiore collaborazione, a un maggiore sostegno della politica estera. Quindi questo nucleo, diciamo, che rimase nella zona occupata venne definita collaborazionista già con una, diciamo, definizione coniata proprio in modo poetico. La prima volta si trova la menzione di questo, categoria, di questa definizione si trova nel diario di Marcel Beato nel novembre del 40 e che è stato ripreso successivamente dalla storiografia e cito Enzo Collotti per indicare un'ulteriore degenerazione linguistica anche nell'espressione, appunto, degenerazione anche nell'espressione linguistica della collaborazione in collaborazione a significare un'accezione comune una particolare condizione psicologica per individui storici con le scelte della potenza. I collaborazionisti erano appartenenti a formazioni politiche nel periodo del dopoguerra che si chiamavano al fascismo, ma anche esponenti di movimenti da sinistra pacifista e anticomunista che avevano rotto con i partiti tradizionali. Tra i collaborazionisti del Vichy ritroviamo Angelo Tasca, che è stato anche oggetto della bibliografia di Emanuele Rocca. Altri invece erano semplici opportunisti e in cerca di posizioni di potere e tra i collaborazionisti fu anche un francese, un certo numero non trascurabile di intellettuali che contribuì a promuovere una politica con i loro scritti, con i loro interventi, con la loro propaganda, una politica di sostegno alla causa nazista e i nomi sono diciamo, noti da Pietro Rochelle, Sedina, Robert Cardiale e tagliato. E quindi diciamo, questo fenomeno degli intellettuali collaborazionisti francesi è stato in qualche modo oggetto di analisi da molto tempo. Appunto, se il collaborazionismo parigino presentava molti anni al suo interno come matrici culturali, certamente questa diciamo, pluralità di matrici politico-culturali è realizzata anche nei giovani Vichy. E pensavo appunto, proprio stamattina facevamo questa discussione sulla presenza del ruolo dei tecnici, perché se una parte degli esponenti Vichy erano appartenenti a un'elite di conservatori provenienti essenzialmente dall'estrema destra, che erano stati messi da parte degli anni del mondo popolare, e quindi si erano ritrovati a potere con il 1940, con proprio un po' di revanche. Questa parola revanche lo ritroviamo spesso, ad esempio, si è cominciato a lasciare un passo che era stato fondatore di un movimento nazionalista della Francia a destra e che appunto chiamava Vichy. Però non solo uomini di estrema destra chiamano Vichy, ma anche i cosiddetti tecnocratici, quindi condiviso e sostenuto questo progetto di rinnovamento dei sci. Ma appunto, come vi ho anticipato, la storiografia sugli sci è stata molto ampia da questo volume di Robert Parson negli anni 70 a oggi. Possiamo dire che il regime di Vichy è stato oggetto di numerosi contributi. Per in qualche modo ristrutturare questa evoluzione storiografica, ho scelto tre punti che mi sembravano comunque interessanti anche eventualmente per la discussione. Il primo è il rapporto tra Vichy e la società francese. Il secondo riguarda appunto questa questione complessa, se Vichy è stato o no un fascismo, se può essere definito un fascismo in qualche modo. Questo ci invia anche ad una definizione della collaborazione francese. E poi vorrei chiudere su con alcune riflessioni con quello che sono state considerate le origini repubblicane di Vichy, che infatti ha aperto un dibattito, insomma, mi sembra dei punti anche più interessanti su cui chiudere. Come vi dicevo, la stagione di studi che più ha più prodotto, che più ha ripetuto e ha ricostruito insomma nel dettaglio, diciamo, di questo periodo, un periodo breve appunto dal 40 al 44, nonostante la complessità poi delle vicende che riguardano l'occupazione della Repubblica, eccetera, e, si è in qualche modo questa stagione storiografica si è articolata e ha trovato un movimento dall'inizio degli anni 70, quindi dal nome di Parson, direi fino agli anni 90, nonostante ancora oggi escono delle ricerche e degli studi su alcuni aspetti ancora che necessitano approfondimento. Un convegno che ha rappresentato una mise en place, cioè proprio una somma su questo rapporto tra Vichy, la società francese, appunto del 92, Vichy e FIF, scusate, Vichy e Français, e da allora appunto sono stati, diciamo, in questo contesto sono state indagate le relazioni, le formazioni sociali, culturali, della politica, ma anche economiche. La domanda, insomma, che ha attraversato questa stagione di studi è come è stata trasformata la società francese da questi 4 anni, quali sono state le eredità di questo periodo sulla storia repubblicana. Dagli anni 90 sono ormai contentissimi gli echi della prima ricostruzione della storia di Vichy, che era appunto del 54, la France di Vichy, che è stato un riferimento basilare per più di 15 anni, che in qualche modo aveva proposto, anticipato alcuni luoghi comuni che poi sono stati quindi messi in discussione da questa stagione storiografica. Lo stesso Romano aveva sostenuto la tesi di due Vichy, quella di Laval e Brel. Quindi il maresciallo Pétain più lieve o meno più caro, come un politico che arrivava in quel modo sostenuto e in modo meno convinto la collaborazione, mentre Laval era quello che aveva radicale così di questa collaborazione. La politica perseguita dal maresciallo, secondo Aragon, aveva avuto la funzione di scudo per impedire la colonizzazione del paese e insistendo in modo particolare sulle iniziazioni clandestine algeriche da parte di tanti alleati, appunto per avvalorare l'idea del tutto gioco. Quindi l'idea di questa Vichy come parentesi della storia repubblicana francese è stata del tutto abbandonata con il volume di Robert Parson che ho citato, che pubblicò nel 1963 e che in qualche modo viene comunque considerato come l'avvio di una rivoluzione. Sulla base di un'ampia documentazione, anche se di essere presente. Parsons ha dimostrato insomma, in questo libro che, cito, la collaborazione non fu un'esigenza tedesca alla quale i francesi hanno risposto per simpatia o per assenza, fu una proposta della Francia che in ultima analisi rifiutò. Da allora quindi l'esperienza di Vichy, che diventava il 60% della scorsa stagione storiana dagli anni 70 agli anni 90, quanto poi di una memoria pubblica che sembrava ossessionata da Vichy, tanto appunto che lo storico suo ha parlato di sindrome di Vichy, sono stati al centro di un grande lavoro sia poi in programma che in particolare. In particolare, diciamo, la parte che ancora oggi diciamo, è risulta stimolante di questa prima sintesi di Parsons riguarda le pagine conclusive, cioè il quinto capitolo.